good morning, good morning. Good morning, Calimera. How are you, my dear? Calimera, Thomas in Birmingham. Good morning, Calimera. Ah, good morning. Good morning, Calimera. Okay? Good morning. How are you, my dear? Ada, Ada, Les Ferris, Ada. Ada, Les Ferris. Ada. Ada. Ada, Ada, oh my god, Ada, Les Ferris, Ada, Ada, Ada, good morning, good morning, good morning. Oh no, how are you today? You okay? Ah, cinco nove, eh? Tutto bene. Bomba, bomba. Bomba. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Okay, so you, Thessaloniki. Yeah, Thessaloniki, okay? Chamada geral, oásis isento, escuto. Chamada geral. Oásis 200, escuto. Good morning, thank you, Yasu. Chamada geral. Good morning, Calimera, good morning. Chamada geral, oásis 200, escuto. Chamada geral, oásis 200, escuto. Chamada geral, oásis 200, escuto. Chamada geral, oásis 200, escuto. A ver o que é que está aí a dizer, good morning, bom dia, 73, é por cá o oásis 200, escuto. E o que é que eu achei? Colega, está a ser com um bocadinho de ruído, eu não estou a escutar nas perfeitas condições, é correto? Chamada geral, treino da ANAR PT, escuto. 137. ANAR PT, olá. Chamada geral, Maral, treino da ANAR PT. Chamada geral. Treino da ANAR PT, oásis 200, escuto. Chamada geral, treino da ANAR PT, oásis 200, escuto. Chamada geral, treino da ANAR PT, oásis 200, escuto. Chamada geral, treino da ANAR PT, oásis 200, escuto. Chamada geral, treino da ANAR PT, oásis 200, escuto. Chamada geral, oásis 200, escuto. Olá, c'è nessuno? Oh, mentalista. Gabino, ci sei? Forse di sì, in FM sono. Perché io sono in FM. Vedi che c'è anche Franco. Chiamata geral, oasi 200. Perché? Cosa ci avevi? Minimo dubbio. Io che ve ne ho un bel dubbio. Aspetta che abbasso. Perché è freddo. Ok, dai, va bene così. Frate un caffè, frate, si caldi. E vedi che ha fatto come un carro armato. Ecco. Va bene. No, ecco. Ti do pochi fatti. Aspetta, Sì, fatti. Va bene così. E allora la vedete com'è? Un casino. Chiamata geral, 30 ad Arpetino. Sono da qui, ho la radio, ma no, non lo so, buio, ha fatto una cosa, delle prove strane la fe. Prove strane? Yes. Questo è un professore. Collegamenti con coso, con Houston, Apollo Rosso e Houston chiama collegamento terra. Secondo me voi siete scende pure il gabbo. Da una tantissima voi scendi pure il gabbo, perlomeno. Non in maniera, come si dice, obsoleta, ma in maniera tranquilla, da. A tipo via acqua di vino, dai, tenevi un coso, vivi su lui. E sono tranquilla, che è tranquilla io, uno che comincia a fare vita con giusto, con i marziani è un casino. Pure è diviso, no, e quindi bisogna combinarli e ficcare con quindini, cosa so fare da fare, è nata in opera, se a curarsi qualche cosa, o a piantarsi qualche cosa, che è baluva. Io ti tengo a culo e ti ricoverai subito. E io diciamo direttamente a Rugoso, a chi sta tombolanti che ti si può cadere di tuo canto fracassato. Chiede che non cacciano i bussi. E beh, Gavino, ci sei Gavino, bracciamalo. Gavino con le prove strane. Oi. Gavino. E quindi oggi fermo barbecue. E allora, ora già puni proprio faedo. Andave, allora ha fatto una corazzella, se la buona forza. Oi. Lascia perdere. Oggi devo che passa algún vento, mangiamo. Brodo del cassolino dando, un poco di salata. E una gaura più. No, oggi hanno in Cina, ci visto che hanno fatto brutto di Zurichi. Più buono, chi su burri cammina burro, Chi si lo pone la macchina, faccia tutto il tempo. Oh Giulia. Gai este. Allora, no, mi ho lubrificato tutto la 680, sì, mi ho lubrificato. Che non si muovia neanche il manopole più. Chiamata Geral. Chiamata di Biagio. Non ne frega niente a me. A Geral si chiede, non sei chiamata Geral, chiamata, Gerasso, dove si chiede Gerasso, non ha le bise ormai. No. A me non mi tarisce, non tanto lo fa vedere in italiano né nulla, non si va, non fessa neanche di farsi comprendere. E allora li mandiamo in F. E allora a Firenze li mandiamo, ma ne macchi a Firenze, lo carichi per a Firenze, boh. Aspetta, un minuto che mi metto una benda. Eia. Firenze è il seguasso di Gozzo, di Renzi. Gavino, ci sei. Chiamata Geral. Treno da Narpiti, Oasi Zente Scuto. Chiamata Geral. Treino da Narpiti, Oasi Zente Scuto. Chiamata Geral. Treino da Narpiti, Oasi Zente Scuto. Chiamata Geral, treno da Narpete, oasi Zente Scuto. E quindi oggi giornata Cinghialetto, ma è partito lo dirlo, questo volco, è fuggito lo volco. Cavai, chi mi dà nel tene, fare che accuro me, la gira a taglio, con mi soffredda a ficcare di magnità che cosa. Cos'è che fai? Agitavane e fare qualcuno di cinghialetto da vedere vicino alle tene, con questo freddo che fende a si fare magnuto. Lascia lo farà. Perché attento si fa reggio e lo forro. Allora vedi, quella è una buona iniziativa. E vicino la mamma da rito, se si fa si vede. E basta abbigliamo di questi canaiti belli e virucco da piedi da rito. Oasi, se si è detta che oasi, se linha. Ma ero frattempo correndo di te, insomma. Ah, e te sicuro. Ma tu provi a un canale web a qualche luogo a vedere, se tu sei in stagianza, vedi si cappa, eh. Ma ci ha pagato, oi. Non ti mollami. E se tu ti senti nella tua casa, e vai un miglioretto, dai Anna te ne rampa. Ehi, e tu poneri una fetta d'aula in basso gli osso. O se no riscrivi un cartello, non c'è nessuno qua, vai da un'altra parte. Non c'è nessuno qua. Oi, allora che schifo. E intanto la prendeva, e in questo luogo, voleva che fene, a vedere si parla, tutta canta la collina si parla, la collina degli invisibili. A che storia la fa Eva in Givia? Eva dice che ha fatto del giornale in Givia, e dice che è rimasto sgombrato tutto d'ora, si è parlato una casa di 3 piani. In Givia mi sa che si ne va... un'aria larga e lampanne tutto e prevenire la chiamata Giraldo 30 narpete o quasi sento scusso a inizio d'anno a se cura di casa qui ci sono eventi catastrofici. Però ti sento basso adesso, Fra. Perché mi senti basso? Ok, adesso come mi senti? Adesso va bene, giusto, di nuovo. E se da prendichido, chiamata Gerau, Vabbè, se mi scende basso, visto... Che ci va a far sentire pompende? Ora che si così io va. Chiamata Giral. Allora. Ma che basso bene lo scende? Un po' basso io. Che strano però. Non sono scappa con la bicicletta. Tu e me, sta soffrendo, dai, lascia di già, mia che raga. Ma non ti dici che si intende a me? Ok, Ok, κάτσε να λύσω ένα θέμα με τον Κώστα που έχω με την κεραία του που το κρατάει 7 σφράγγι στο μυστικό. Δεν θα μου πεις εμένα ρε την κεραία είναι. Αν είναι 4 λίρα, αν όπου επειδή. Ήταν κεντήλ, αμένο βεζό. Ή μας ακούνε ρε σιγά, οι δυο μας είμαστε, τώρα μας ακούνε. Ή υπονοείς ότι υπάρχουν κουρτίνες. Άξι, οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν τι λες. Σαν να τα καταλάβουν. Πες του μου στα Θρακιώτικα. Α, είναι η ίδια, Γαμπίνο, Βενερή Μπλούγκα. Μπρο, είναι και σαν πρόβα, σαν τα δύο γκαράζια, σαν τα δύο καπανόμι. Μάλιστα. Εφοβήθηκες κιόλας, δε. Εγώ τι κεραία να βγάλω τότε. Πώς θα σε ακούσω χωρίς κεραία. Κουά, στους 12, μπρο, να όσο. Α, βάμπε. Α, μάλι, από κάτω. Όχι από κάτω κόσμο. Τα σήματα δεν πάνε υπόγεια, από πάνω πάνε, τον ουρανό, από πάνω θα λες μας παρακολουθούν. Για βαμπένε, για βαμπένε. Πού είναι η σαρανταρίχα σόφα, είναι μόνο. Να έπισε ένα διπλωμανιά. Έπισε, πάνω... Σε πραγίσου μπαίνεις. Εγώ δεν είμαι μπισά. Πα. Ωια. Καλά ρε Κώστα, πλήγωσε μη κι άλλο. Με έκανες υποσταθμό, δηλαδή δεν μπορώ να τους περάσω από αυτούς. Είχα κομβίντο, και σε μπάσα. Και να σε βάζε βαβεντά. Είχα κομβίντο. Aia, che roba, che roba. E allora? Così è. E comunque. Λοιπόν, Κώστα, για λίγο θα είμαι εκτός, θα τα πούμε, ναι. Όχι, όχι. Αντά bene, αντά bene. Μα, βέβαια, no, niente di importante. Tutto a posto, niente in ordine, fra. Come sempre, se no le cose non funzionano. Chi te l'ha detto che tutto a posto, niente in ordine? Chi te l'ha detto questa cazzata? A chi quando è tutto a posto e niente in ordine, oh Iuia, invece da che tutto in ordine è tutto a posto, come ti tocchi che cosa fai tanto? Sei alto su pur? Boh. Dipende che avrai in mano lo russo. Di altri fugosi, qui del cinese, che fa le arti marziali. Aspetta che un attimino, che è arrivato giù, un attimino. No, è tutto regolare, no, Ghi. Carino, dove sei? Cos'è, ho tempo male, dimmi Darinotti. Ho tempo male, dimmi Darinotti. No, non hai capito che è tempo male. È perché sei basso del radio. Va bene, va se ma si chiede anche il cugone con la bumata del lontananza. Ecco, Gianni te trapassenti, Ma già hai ragione. Hai ragione, Vaggio. Su te te l'avevo detto. Ma niente d'altro di passi, non lo vedi che è lontano fai dentro. Aspettate, mi prendo un caffè, riprendo subito. Avame lo vostro pure io un caffè, risveglio classico della lavata. E allora fra, fammi il codoro male, hai visto, qui si fa di faccia di noce. Ehi, avame i giubi della gadria. E adesso com'è? Adesso va bene. Perché stavo usando un microfono che non ha tanto e non lo usavo più. E lì si guasano subito, sino idrati. Gaffa, gaffa. No, adesso sei fortissimo, forte e chiaro. Capo. Va bene allora, va bene. Io ho lubrificato i cosi dei cavetti. Ho capito. Dove sarei buttato giù da riva? Sì, uso la riva. Anche cosa di più questo che fa di più effetto? No, perché di olio Evo Cross. Anche in Sicilia dice che hanno produzione di olio buono. Certo. E forse anche olivi. E sicuramente vanno la riva come te abbiamo noi. Eia, sicuramente sì, perché ho visto dei video l'altra volta dove c'era quel camionista, pam, e giù, vanno in un Volvo celeste su Gambio Veddu. E niente, stavano raccogliendo le olive ed erano in via Torre, un momento mi è caduto in Sicilia. Ma bello me! Fra, tipo come c'è qua che si vede fare nella marina, si vede al mare tutti gli alberi della riva ed erano costruiti nella riva, e poi hanno fatto Sturio, però non l'ha detto ad Altuira e a Gansnoeda. Cappa, non è come te in Oga, se no che la nati a 15 che dà minimo la nati a 20. Minimo. E qua non lo so se a 15 o a 12 quest'anno. Cappa, non lo so. Non le prendo olio così. Prendo sempre, mia moglie lo prende da Eurospin. Piglia dire dall'Eurospin, così da Sendiburu la, come si chiama? La lanterna. Cosa vuoi fa? Olio via. Olio. Costa. Infatti, da chi fa il Budadori a campagna? A Pamerabuli, da Risuccioni, da Rusecco, da Guido, a bisogno che vuol dire tutto 19 euro a Aibolo. Fatti lo duro pronto, se uno va a 200 Aibolo, che anche ne ha so. Oh, Franco. Eia. Carta e penna c'hai appresso? Sì, perché? Guarda se in mezzo alle tue bigiascioli c'hai questa bobina variabile un attimino. No, bobine variabili non ne ho neanche una, c'ho solo quella là. No, non ne ho di coso. L'unica scheda che avevo l'avevo data a te. No, ok. E va bene. Quasi senti tutto. Com'è adesso, Gabri? Stava a venire tutto, mi dice quello di intonaco. Sì, vai, non da mai gratis, vai. No, era da molto che non lo usavo l'MC60 e l'avevo beffeccato di cose, di ricavetti. Yes. Sto facendo una cosa, dai, sono solo qua all'ascolto, però sto facendo una cosa, dai, sentiamo dopo. Ehi, va bene, capito. Dai, intanto io mi fra poco me ne scendo, poi ci sentiamo stasera, se ci intendiamo. Ok, Gianni. Cappa Rogero. Allora, tornando anche il discorso, ma perché non c'è più nessuno che raccoglie olive come una volta che le donne andavano, se ti ricordi quando eri piccolo, le donne andavano a raccogliere olive, tutti. Allora non venne più di che te gosi, non venne. Non è la tecnologia che è andata da Nazi che ne raccoglie la macchina. Eni, chi non gli offende i biuni, a chi non conveni, non gli vale la pena, hai compreso? Lo so, fra, dipende però, ma se uno ha un olivetto, tipo come il mio, io chiamo la squadra e c'è praticamente il raccolto con tutti i mesi che loro mettono a disposizione le reti, 4 o 5 ragazzi, va suddivisa in due, quindi se io raccolgo 1000 kg di olive sono 500 a me, 500 a lui, poi ognuno se le porta al mulino e se le macina e si paga la sua macinata, capito? Però se no quelle tante inutili le lasci lì e alla fine sono buttate, invece da maniera ti esce sempre il tanto tuo. Sì, ma tu cosa fai, Padini? 50 aibuli arriva, 30 aibuli arriva, ma non hai 200, 300, 400 come ti veniva in una borsa? Lo so, però adesso già si organizzano così, chi ha gli olivettini un po' grandi e chi ne ha quei stessi 50 alberi, se si mette d'impegno piano piano ogni giorno con il coso già allisci ne dà, tu va a casa e allisci, non ma così l'assaggio. Lo so, però è una cosa, cioè ci sono costo sopra costo, perché tu non devi dare la middaia che non la cogli, ok? Poi l'anno che nesci nei baddini 5 quintali, ma hai 2 quintali e mezzo solo, non hai. Con 2 quintali e mezzo esci poco e nulla. Vabbè, ma tanto hanno raccolto tutto loro, tu non hai fatto niente, ti paghi quelle due macinate, quant'è e ciccia, tanto se non rimane in ghibi e non hai nulla. Sì, questo sì, se te ne raccogli e fatene tutte, sì. andava, non so cosa intende che non andava la divisione, no, la divisione è più che buona, metà metà, perché va a raccogliere. Eh certo, perché con i mesi, con le cose. Vabbè, allora se vuoi fare, purtroppo è così. L'olivetto oggi è un peso umano, è un'impresa, spesa che ti porta, perché a chi si notano già è Buddha, deve pagare come hai detto due ore e costa a Buddallo. E poi se fai a conta legna non ti lascia neanche burro e sei butti a capo. E infatti, però una volta che ce l'hai lo devi anche tenere un po' bada, da. Sì, è proprio così. E poi vedi che già ti dà soddisfazione. E noi non avevamo una giovane, io, noi in famiglia non avevamo uno, ma mi sono presentato ai burri d'arriva, mi so, però è abbandonato, la grande mosso babbo è stato abbandonato, ne vuol troppo a nessuno, ne vuol intendini, però se tu andi a cogliere l'arriva vuoi l'uso, hai compreso, vuoi. E allora nessuno per più quando. No, ma così non va bene, lì se tutti quanti va bene, se no ognuno si va di una gana ne si va. Ma purtroppo sospetti chi sono buono. Perché un anno se ne siamo bussi a Cogliennica, a Falloso, quando l'avevamo detto a venire a cogliere la riva non avevo voluto venire nessuno, lì si ha detto non interessa a nessuno, per andare in Cogliuzzo e Cogliuzzo. E uno, perché disegno che lo so io. E fa parte anche a loro, maledetti. Ma se non avevo mattino, non li logo e non vanno più. E infatti bisogna andare così a questo punto. E allora? Va bene, come si fa la giossa, come si fa la rossa, per me burro la ciuffa e a da bere la senno per mangiare. Ehi, certo, ci vuole, va bene. Allora, risentirci a dopo magari se coincide. Ehi, ciao, ciao, ci sentiamo più tardi. Chiamata Geral, chiamata Geral, chiamata Geral. Oasis, scuto. Sardegna, 01, 01. Chiamata Geral, chiamata Geral, chiamata Geral. Prenda Narcitino Oasis. E qua c'è Gianni, Golf India, Salfa, November. India. Sa sbarra che ti da scogliana. Qua chiamata Geral. Qua chiamata Giri di Porta Nuova, qua chiamata Giri di Porta Nuova, al Golfo della Sinara, Sardegna, in Brecco Brecco. Sì signore, buon dia, Oasis 155, è che Oasis 200, scuto. Afirmativo. E tu estás aí, não? Oh Deus, ali no restaurante do Marcos da Várzea. Fui logo, estavas aí no Marcos, dizia o 10 e que nunca sei. Então não estás a ver. Ui, eu já estou a ver de minóculos e tudo, olha lá. Ver o café abaixo. É um valor muito baixo, não vale só. Manda lá uma fotografia para eu ver. Quero uma selfie. Só se for à minha porta, não? Ah, seguro sim, ui Porta Nova, qua giri do Porta Nova. Ah, agora já viste que eu estou aqui, né? Mas aí se calhar é só Marcos Velho, não? Vê se estás no Marcos Geodésico. Eu estou a ver aqui muros e estás no Marcos Geodésico. Está bem crescendo. Estou aqui ao lado do Marcos Geodésico, cara. Ah, está bem ao lado. Não é no Marcos Geodésico. É ao lado. Eu já acabei um bocadinho, deixa eu só acabar de comer o pão. Alex, está a ser a gente até cá abaixo. nada, não aparece ninguém. Mas sabes uma coisa? Isto é mesmo a antena. Digo já que é a antena que está fodida. E já tens quatro outra vez, não? Já. Sabe, vamos lá fazer aqui uma chamada geral. Chamada geral, chamada geral, chamada geral. Treino da ANAR-PT, Oásis Vento Escuto, ou Oásis Vento também está por aí. Vamos lá ver se ele nos está aqui a responder. Oásis 280, aqui é o Oásis. Chamada geral, chamada geral, chamada geral. Treino da ANAR-PT, Oásis 20. Oásis 155, aqui é o Oásis 20, escuta. É correto e afirmativo, estou por cá. Não aparece ninguém. Até eu vim para aqui não 10 horas em ponto, pá. E tenho tanto de chamadas, não aparece ninguém. Anda tudo chateado com a gente. Chamada geral, chamada geral, chamada geral. Treino da ANAR-PT, Oásis 20, escuto. Está aí o Oásis 280? É correto e afirmativo, mas o 125 por aqui não é escutado. Escuta. Vamos lá ver se ele chega aí. Oásis 155, aqui é o Oásis 200, escuto. Pá, o 280 diz que tu não chegas ali. Então estás aí 1 km de distância e não chegas lá. Então o que é que eu te digo? Oásis 280, Oásis 280, estás aí ou não? Oásis 280, aqui é o Oásis 200, escuta. Oásis 280, aqui o 200 é correto, mas ele chamou-te ainda agora. Mas pronto, como está aí esse alemão, portanto, deve ser por isso. Ok, mas acho que também o Nuno hoje, a antena já também não está nas melhores condições, que é difícil. Para nós três, não é verdade? Olha, não percebi nada do que tu disseste. O alemão passa por cima de ti. Mas pronto, olha, é assim, o Oásis 155 também está por aqui. Mas acho que realmente a antena dele não está em condições, ok? Portanto, é assim, ele também manda por mim, que precisa estar muito perto, mas acho que ele não consegue chegar aí, ok? A ver, Oásis 155 e Oásis 200, escuto. Espera aí, só o Mike para fazer aqui um teste, que eu estou aqui a testar a minha antena. Ora, vamos lá ver agora se recebes ou não. Agora ouvi-te muito melhor. Agora ouvi-te, é diferente, ao bocado não quero ver a pessoa. Ok, então quer dizer que agora está a ouvir bem, é isso? Sim, final. O capo, está bem, mas podemos experimentar aí o USB se quiseres. Pois, agora que eu estava a transmitir, ou vou-te transmitir por cima, aí já foi mais difícil de conseguir perceber a mensagem toda, ainda assim foi em grande parte entendida. Olha, se quiserem passar aí à lateral, para termos um bocadinho mais de...